Fra coloro che attendono, alcuni si torcono nello spasimo di trattenere la preziosa testimonianza ancora 20, ancora 10 minuti. Altri, privi di risorse in quel momento, tendono vene e muscoli nello sforzo opposto. L'infermiere assiste impassibile, mordicchiando la matita, uno sguardo all'orologio, uno sguardo ai campioni che gli vengono via via presentati. Nei casi dubbi, parte con la bacinella e va a sottoporla al medico. Ho ricevuto una visita. È Piero Sonnino, il romano. Hai visto come l'ho buscherato? Piero ha un'enterite assai leggera. È qui da 20 giorni e ci sta bene. Si riposa e ingrassa. Se ne infischia delle selezioni. E ha deciso di restare in KB fino alla fine dell'inverno. A ogni costo. Il suo metodo consiste nel mettersi in fila dietro a qualche dissenterico autentico che offra garanzia di successo. Quando viene il suo turno gli domanda la sua collaborazione, da rimunerarsi con zuppa o pane, e se quello ci sta e l'infermiere ha un momento di disattenzione, scambia le bacinelle in mezzo alla ressa e il colpo è fatto. Piero sa quello che rischia, ma finora gli è sempre andata bene. Ma la vita del KABE non è questa. Non sono gli attimi cruciali delle selezioni. Non sono gli episodi grotteschi dei controlli della diarrea e dei pidocchi, non sono neppure le malattie. Il KB è il lager a meno del disagio fisico. Perciò chi ancora ha semi di coscienza vi riprende coscienza. Perciò nelle lunghissime giornate vuote vi si parla di altro che di fame e di lavoro e ci accade di considerare che cosa ci hanno fatti diventare, quanto ci è stato tolto, che cosa è questa vita. In questo KABE, parentesi di relativa pace, abbiamo imparato che la nostra personalità è fragile, è molto più in pericolo che non la nostra vita. E i savi antichi, invece di ammonirci «ricordati che devi morire», meglio avrebbero fatto a ricordarci questo maggior pericolo che ci minaccia. Se dall'interno dei lager un messaggio avesse potuto trapelare agli uomini liberi, sarebbe stato questo: «Fate di non subire nelle vostre case ciò che a noi viene inflitto qui. Quando si lavora, si soffre e non si ha tempo di pensare. Le nostre case sono meno di un ricordo, ma qui il tempo è per noi. Da cuccetta a cuccetta, nonostante il divieto, ci scambiamo visite e parliamo e parliamo. La baracca di legno, stipata di umanità dolente, è piena di parole, di ricordi e di un altro dolore. Heimweh si chiama in tedesco questo dolore. È una bella parola. Vuol dire dolore della casa. Sappiamo d'onde veniamo. I ricordi del mondo di fuori popolano i nostri sonni e le nostre veglie. Ci accorgiamo con stupore che nulla abbiamo dimenticato. Ogni memoria evocata ci sorge davanti dolorosamente nitida. Ma dove andiamo non sappiamo. Potremo forse sopravvivere alle malattie e sfuggire alle scelte, forse anche resistere al lavoro e alla fame che ci consumano. E dopo? Qui, lontani momentaneamente dalle bestemmie e dai colpi, possiamo rientrare in noi stessi e meditare. E allora diventa chiaro che non ritorneremo. Noi abbiamo viaggiato fin qui nei vagoni piombati. Noi abbiamo visto partire verso il niente le nostre donne e i nostri bambini. Noi, fatti schiavi, abbiamo marciato 100 volte avanti e indietro alla fatica muta, spenti nell'anima prima che dalla morte anonima. Noi non ritorneremo. Nessuno deve uscire di qui che potrebbe portare al mondo, insieme col segno impresso nella carne, la mala novella di quanto, ad Auschwitz, è bastato animo all'uomo di fare dell'uomo. Le nostre notti. Dopo 20 giorni di KABE, essendosi la mia ferita praticamente rimarginata, con mio vivo dispiacere sono stato messo in uscita. La cerimonia è semplice, ma comporta un doloroso e pericoloso periodo di riassestamento. Chi non dispone di particolari appoggi, all'uscita dal KABE non viene restituito al suo blocco e al suo comando di prima, ma è arruolato, in base a criteri a me sconosciuti, in una qualsiasi altra baracca e avviato a un qualsiasi altro lavoro. Di più, dal Kabe si esce nudi. Si ricevono vestiti e scarpe nuovi, intendo dire non quelli lasciati all'ingresso, intorno a cui bisogna adoperarsi con rapidità e diligenza per adattarli alla propria persona, il che comporta fatica e spese. Occorre procurarsi da capo cucchiaio e coltello. Infine, e questa è la circostanza più grave, ci si trova intrusi in un ambiente sconosciuto, fra compagni mai visti e ostili, con capi di cui non si conosce il carattere e da cui quindi è difficile guardarsi. La facoltà umana di scavarsi una nicchia, di secernere un guscio, di erigersi intorno una tenue barriera di difesa, anche in circostanze apparentemente disperate, è stupefacente e meriterebbe uno studio approfondito. Si tratta di un prezioso lavorio di adattamento, in parte passivo e inconscio e in parte attivo, di piantare un chiodo sopra la cuccetta per appendervi le scarpe di notte, di stipulare taciti patti di non aggressione coi vicini, di intuire e accettare le consuetudini e le leggi del singolo comando e del singolo blocco. In virtù di questo lavoro, dopo qualche settimana si riesce a raggiungere un certo equilibrio, un certo grado di sicurezza di fronte agli imprevisti. Ci si è fatto un nido, il trauma del travasamento è superato. Ma l'uomo che esce dal Kabe, nudo e quasi sempre insufficientemente ristabilito, si sente proiettato nel buio e nel gelo dello spazio siderale. I pantaloni gli cascano di dosso, le scarpe gli fanno male, la camicia non ha bottoni. Cerca un contatto umano e non trova che schiene voltate. È inerme e vulnerabile come un neonato, eppure al mattino dovrà marciare al lavoro. In queste condizioni mi trovo io quando l'infermiere, dopo i vari riti amministrativi prescritti, mi ha affidato alle cure del Block El Tester, del Block 45. Ma subito un pensiero mi colma di gioia. Ho avuto fortuna. Questo è il Block di Alberto. Alberto è il mio migliore amico. Non ha che 22 anni, due meno di me, ma nessuno di noi italiani ha dimostrato capacità di adattamento simili alle sue. Alberto è entrato in lager a testa alta e vive in lager illeso e incorrotto. Ha capito prima di tutti che questa vita è guerra. Non si è concesso indulgenze, non ha perso tempo a recriminare e a commiserare sé e gli altri, ma fin dal primo giorno è sceso in campo. Lo sostengono intelligenza e istinto. Ragiona giusto, spesso non ragiona ed è ugualmente nel giusto. Intende tutto a volo. Non sa che poco francese e capisce quanto gli dicono tedeschi e polacchi. Risponde in italiano e a gesti, si fa capire e subito riesce simpatico. Lotta per la sua vita, eppure è amico di tutti. Sa chi bisogna corrompere, chi bisogna evitare, chi si può impietosire, a chi si deve resistere. Eppure, e per questa sua virtù oggi ancora la sua memoria mi è cara e vicina, non è diventato un tristo. Ho sempre visto e ancora vedo in lui la rara figura dell'uomo forte e mite contro cui si spuntano le armi della notte. Non sono però riuscito a ottenere di dormire in cuccetta con lui e neppure Alberto ci è riuscito, quantunque nel Block 45 egli goda ormai di una certa popolarità. È peccato, perché avere un compagno di letto di cui fidarsi o con cui almeno ci si possa intendere è un inestimabile vantaggio. E inoltre, adesso è inverno e le notti sono lunghe, e dal momento che siamo costretti a scambiare sudore, odore e calore con qualcuno, sotto la stessa coperta e in 70 centimetri di larghezza, è assai desiderabile che si tratti di un amico. D'inverno le notti sono lunghe e ci è concesso per il sonno un intervallo di tempo considerevole. Si spegne a poco il tumulto del blocco. Da più di un'ora è terminata la distribuzione del rancio serale e soltanto qualche ostinato persiste a grattare il fondo ormai lucido della gamella, rigirandola minuziosamente sotto la lampada con la fronte corrugata per l'attenzione. L'ingegner Cardos gira per le cuccette a medicare i piedi feriti ed i calli suppurati. Questa è la sua industria. Non c'è chi non rinunzi volentieri ad una fetta di pane, purché gli venga alleviato il tormento delle piaghe torpide, che sanguinano ad ogni passo per tutta la giornata, ed in questo modo, onestamente, l'ingegner Cardos ha risolto il problema di vivere. Dalla porticina posteriore, di nascosto e guardandosi attorno con cautela, è entrato il cantastorie. Si è seduto sulla cuccetta di Wachsmann e subito gli si è raccolta attorno una piccola folla attenta e silenziosa. Lui canta un'interminabile rapsodia yiddish, sempre la stessa, in quartine rimate, di una melanconia rassegnata e penetrante, o forse tale la ricordo perché allora ed in quel luogo l'ho udita. Dalle poche parole che capisco, deve essere una canzone da lui stesso composta, dove ha racchiuso tutta la vita del lager nei più minuti particolari. Qualcuno è generoso e rimunera il cantastorie con un pizzico di tabacco o una gugliata di filo. Altri ascoltano assorti, ma non danno nulla. Risuona ancora improvviso il richiamo per l'ultima funzione della giornata. «Wer hat kaputt die Schuhe?» «Chi ha le scarpe rotte?» E subito si scatena il fragore dei 40 o 50 pretendenti al cambio, i quali si precipitano verso il Tagesraum con furia disperata, ben sapendo che soltanto i 10 primi arrivati, nella migliore delle ipotesi, saranno soddisfatti. Poi è la quiete. La luce si spegne una prima volta, per pochi secondi, per avvisare i sarti di riporre il preziosissimo ago e il filo, poi suona lontano la campana, e allora si insedia la guardia di notte, e tutte le luci si spengono definitivamente. Non ci resta che spogliarci e coricarci. Non so chi sia il mio vicino. Non sono neppure sicuro che sia sempre la stessa persona, perché non l'ho mai visto in viso, se non per qualche attimo nel tumulto della sveglia, in modo che molto meglio del suo viso conosco il suo dorso e i suoi piedi. Non lavora nel mio comando e viene in cuccetta solo al momento del silenzio. Si avvoltola nella coperta, mi spinge da parte con un colpo delle anche ossute, mi volge il dorso e comincia subito a russare. Schiena contro schiena, io mi adopero per conquistarmi una superficie ragionevole di pagliericcio, esercito con le reni una pressione progressiva contro le sue reni, poi mi rigiro e provo a spingere con le ginocchia, gli prendo le caviglie e cerco di sistemarle un po' più in là, in modo da non avere i suoi piedi accanto al viso, ma tutto è inutile, è molto più pesante di me e sembra pietrificato dal sonno. Allora io mi adatto a giacere così, costretto all'immobilità, per metà sulla sponda di legno. Tuttavia, sono così stanco e stordito che in breve scivolo anch'io nel sonno e mi pare di dormire sui binari del treno. Il treno sta per arrivare. Si sente ansare la locomotiva, la quale è il mio vicino. Non sono ancora tanto addormentato da non accorgermi della duplice natura della locomotiva. Si tratta precisamente di quella locomotiva che rimorchiava oggi in buna i vagoni che ci hanno fatto scaricare. La riconosco dal fatto che anche ora, come quando è passata vicino a noi, si sente il calore che irradia dal suo fianco nero. Soffia, è sempre più vicina. È sempre sul punto di essermi addosso e invece non arriva mai. Il mio sonno è molto sottile. È un velo. Se voglio lo lacero. Lo farò. Voglio lacerarlo, così potrò togliermi dai binari. Ecco, ho voluto. E ora sono sveglio. Ma non proprio sveglio. Soltanto un po' di più, al gradino superiore della scala fra l'incoscienza e la coscienza. Ho gli occhi chiusi. E non li voglio aprire per non lasciar fuggire il sonno, ma posso percepire i rumori. Questo fischio lontano sono sicuro che è vero, non viene dalla locomotiva sognata, è risuonato oggettivamente. È il fischio della Decoville, viene dal cantiere che lavora anche di notte. Una lunga nota ferma, poi un'altra più bassa di un semitono, poi di nuovo la prima, ma breve e tronca. Questo fischio è una cosa importante. E in qualche modo essenziale. così sovente l'abbiamo udito, associato alla sofferenza del lavoro e del campo, che ne è divenuto il simbolo e ne evoca direttamente la rappresentazione, come accade per certe musiche e certi odori. Qui c'è mia sorella e qualche mio amico non precisato e molta altra gente. Tutti mi stanno ascoltando e io sto raccontando proprio questo. Il fischio su tre note, il letto duro, il mio vicino che io vorrei spostare ma ho paura di svegliarlo perché è più forte di me. Racconto anche diffusamente della nostra fame e del controllo dei pidocchi e del capò che mi ha percosso sul naso e poi mi ha mandato a lavarmi perché sanguinavo. È un godimento intenso, fisico, inesprimibile essere nella mia casa, fra persone amiche, e avere tante cose da raccontare. Ma non posso non accorgermi che i miei ascoltatori non mi seguono. Anzi, essi sono del tutto indifferenti. Parlano confusamente d'altro fra di loro, come se io non ci fossi. Mia sorella mi guarda, si alza e se ne va senza far parola. Allora nasce in me una pena desolata, come certi dolori appena ricordati della prima infanzia. È dolore allo stato puro, non temperato dal senso della realtà e dalla intrusione di circostanze estranee, simile a quelli per cui i bambini piangono. Ed è meglio per me risalire ancora una volta in superficie, ma questa volta apro deliberatamente gli occhi, per avere di fronte a me stesso una garanzia di essere effettivamente sveglio. Il sogno mi sta davanti, ancora caldo, e io, benché sveglio, sono tuttora pieno della sua angoscia. E allora mi ricordo che questo non è un sogno qualunque, ma che da quando sono qui l'ho già sognato, non una, ma molte volte, con poche variazioni di ambiente e di particolari. Ora sono in piena lucidità, e mi rammento anche di averlo già raccontato ad Alberto, e che lui mi ha confidato con mia meraviglia che questo è anche il suo sogno, e il sogno di molti altri, forse di tutti. Perché questo avviene? Perché il dolore di tutti i giorni si traduce nei nostri sogni così costantemente, nella scena sempre ripetuta della narrazione fatta e non ascoltata? Mentre così medito, cerco di profittare dell'intervallo di veglia per scuotermi di dosso i brandelli di angoscia del sopore precedente, in modo da non compromettere la qualità del sonno successivo. Mi rannicchio a sedere nel buio, mi guardo intorno e tendo l'orecchio. Si sentono i dormienti respirare e russare, qualcuno geme e parla. Molti schioccano le labbra e dimenano le mascelle. Sognano di mangiare. Anche questo è un sogno collettivo. È un sogno spietato. Chi ha creato il mito di Tantalo doveva conoscerlo. Non si vedono soltanto i cibi, ma si sentono in mano, distinti e concreti. Se ne percepisce l'odore ricco e violento. Qualcuno ce li avvicina fino a toccare le labbra, poi una qualche circostanza, ogni volta diversa, fa sì che l'atto non vada a compimento. Allora il sogno si disfa e si scinde nei suoi elementi, ma si ricompone subito dopo e ricomincia simile e mutato. E questo senza tregua per ognuno di noi, per ogni notte e per tutta la durata del sonno.